ora il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio. Al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso c'è la lacrima e lui credette di affogare. Ti guardano così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono.